A New York sono le 8:49, in Italia le 14:49, quando il collega corrispondente dagli Stati Uniti, Alessandro Platerotti, che in quel momento si trova sotto le Torri Gemelle, dà la prima notizia dell'esplosione. Alle 9:15, ora di New York, una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center, i due grattacieli gemelli nel downtown New York, dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. L'esplosione è stata violentissima, si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Mezzi di soccorso e polizia stanno circondando in questo momento tutta quanta la zona intorno al World Trade Center, il distretto finanziario, il cuore di New York e della scienza mondiale. È anche l'inizio della lunga diretta di Radio 24. Alle 14:52 si chiarisce la dinamica del primo attentato. La novità sarebbe questa, che abbiamo parlato di un'esplosione, pare invece che sarebbe stato un aereo ad abbattersi sul World Trade Center. Dopo 2 minuti le prime testimonianze raccolte dalla CNN. Un'esplosione, in questo momento c'è stata una grande esplosione nei piani alti. C'è il tetto intero, cioè tutti gli ultimi 20 piani del palazzo sono ora avvolti nel fumo. Proprio dal lato nord si è diffusa un'impressionante esplosione. Alessandro Platerotti si ricollega da New York, sono le 14:58. Qui ormai è una giungla di sirene, di autoambulanze, di vigili del fuoco, c'è il panico più totale sotto al World Trade Center. L'aereo si tratta di un aereo che apparentemente, secondo quanto riferiscono i testimoni oculari che erano proprio qui sotto, è entrato dritto dentro ai piani più alti del World Trade Center. Non è sembrato nemmeno che attentasse una manovra di emergenza. Alle 15:04 in diretta la drammatica cronaca dell'esplosione alla prima torre. Gene, can you tell us, I don't know if you can tell Allora, which tower it is, that's on fire right le now, or testimonianze, what kind innanzitutto of vediamo, system sono is due on fire. elicotteri che sorvolano la struttura in fiamme. Ripeto, sono immagini impressionanti. Colpito quindi il World Trade Center nei piani alti, sta bruciando in questo momento. I testimoni per ora sono quelli raccolti ovviamente alla base della torre e le testimonianze parlano di una tremenda esplosione che ovviamente le immagini confermano. Mario Platero alle 15:05 racconta delle fiamme alla seconda torre. Sì, guarda, siamo qua in mezzo a un inferno, ambulanze, polizia, siamo a pochi metri dalle due torri, adesso anche la seconda torre sembra essere in pieno fuoco e questo non so se è nota, ma qua vedo chiaramente che c'è un livello dell'altra torre che sta prendendo fuoco anche lei. E come avete saputo, l'incidente è avvenuto letteralmente con questo aereo che sembra che fosse, almeno secondo le prime ricostruzioni, un Boeing 737, un bimotore non grandissimo, ma comunque un jet. L'immagine, cosa vi posso dire, è veramente impressionante vedere questa torre di fumo che si alza dall'87° piano della torre, quella che ha l'antenna, la torre, diciamo, dove i turisti possono andare e partecipare alla splendida vista che si gode dall'alto al ristorante, ma la torre è subito dietro, vi ripeto, e questo a me sembra un fatto nuovo, è incendiata anche lei. E vi ripeto, sono in mezzo a una situazione di enorme confusione, non è chiaro quante siano le vittime. È impossibile che non ci siano dei feriti, sarà difficilissimo l'operazione di recupero. E vi ripeto, c'è una colonna assordante di ambulanze, di pompieri, di polizia che si sta riversando verso le due torri. 15:06 in diretta il secondo aereo kamikaze contro la seconda torre. Attenzione, c'è una seconda enorme esplosione. La seconda torre sembra, in questo momento, è letteralmente avvolta in un fumo nero. È impossibile persino dirvi se è ancora lì, poiché tutto è avvolto nel fumo. Onestamente non sono in grado, forse Laura Io non puoi riesco neanche condividere Sì, questa. no, è la stessa impressione, perché non si riesce a vedere nulla. Another passenger plane hitting the World Trade Center. No, attenzione, attenzione. Questa abbiamo visto un'immagine di un secondo aereo che sta. È l'immagine che Abbiamo si visto riferisce alla letteralmente seconda. un aereo che ha impattato la struttura della torre. È persino difficile comprendere, poiché, ripetiamo, abbiamo visto fiamme nella prima struttura. E ecco, entrambe le strutture sono in fiamme attualmente. Vi chiedo un attimo di pazienza, stiamo ascoltando le testimonianze dirette. Secondo lo speaker della CNN in questo momento due aerei separati a 18 minuti di distanza l'uno dall'altro avrebbero impattato le torri. Attenzione, collegamento con New York. Pronto? Pronto. Sei in linea, sei in diretta. Sì, ecco, il secondo aereo ha puntato dritto sulla seconda torre, veniva dal New Jersey, apparentemente la direzione era quella dell'aeroporto di Newark, perché ha attraversato il fiume l'Hudson dritto, ha fatto una virata, l'ultima virata prima di puntare sulla torre e poi ha colpito in pieno la seconda torre. Non si riesce a capire esattamente la dinamica soprattutto del primo, ma del secondo è apparso chiaramente che ha puntato dritto sulla torre. Tutto lascia pensare a questo punto un attentato. L'aereo era un aereo completamente grigio, senza insegne, e sembrava un Boeing, un aereo molto grande, non era un aereo da turismo, al contrario del primo che era molto più piccolo. Il secondo era ripeto, scusatemi le fasi molto concitate, ma è stato uno shock vedere questo aereo puntare dritto sulla torre e cadere, soprattutto mentre sotto c'erano vigili del fuoco e la gente che veniva evacuata dalla prima delle torri colpite. 15.07 si chiarisce la dinamica del secondo attentato. Nel momento in cui già la prima torre era in fiamme si è visto distintamente un aereo, un bimotore di dimensione effettivamente equivalente o comunque quantificabili in una trentina, quarantina di metri, quindi un aereo passeggero completamente scuro, senza insegne, che virava chiaramente per colpire la seconda torre. Quindi se per il primo non abbiamo indicazioni, sul secondo abbiamo delle indicazioni visive molto chiare. L'azione sembrava quella di un kamikaze, sostanzialmente. 15.22, la testimonianza di Alessandro Plateroti nella città che ancora non si è resa conto della gravità della tragedia. Qua è il terrore puro, la città sta vivendo ora il terrore, la città è paralizzata. Io in questo momento mi trovo a poche centinaia di metri dalle torri, dove ero anche al momento della prima esplosione, per ragioni di lavoro nel quartiere finanziario. E a questo punto, praticamente siamo nella zona ovest, è completamente paralizzata, la polizia ha isolato quasi 5 chilometri intorno al luogo delle esplosioni. Io mi trovo all'interno in questo momento, ma è praticamente impossibile muoversi. Per ricapitolare, la prima esplosione è avvenuta alle 8.45, l'aereo proveniva da nord, era un aereo poco più grande di un aereo da turismo, ha centrato dritto la prima torre, passano 15 minuti, abbiamo visto arrivare un aereo completamente grigio, molto più grande, probabilmente un Boeing 737 o qualcosa di molto simile, sembrava un aereo militare privo delle insegne, ha fatto una virata sull'Hudson, proveniva da sud, quindi probabilmente dall'aeroporto di Newark, che si trova in New Jersey, a poca distanza di New York, ha fatto una virata e ha puntato dritto sulla seconda torre. È stata una scena agghiacciante, al di sotto si trovano già tutti i mezzi di soccorso e la gente, ci ricorda, nel World Trade Center lavorano migliaia di persone, stiamo parlando veramente del cuore pulsante della finanza americana, dell'industria americana. Ecco, i detriti sono caduti nella zona, non si sa esattamente né un bilancio delle vittime né quello esattamente che cosa può essere successo là sotto, perché, ripeto, si trovano mezzi di soccorso, di polizia e soprattutto la gente, i lavoratori della zona finanziaria che venivano evacuati dalle forze dell'ordine. 15.24, Mario Platero raccoglie le testimonianze di chi ha assistito ai primi due attentati. Innanzitutto volevo dirvi che c'è un isolo naturalmente, migliaia di persone, perché l'esplosione è avvenuta nel cuore del World Financial Center. Per esempio all'interno del World Financial Center c'è il mercato del cotone e tutti gli operatori li abbiamo visti con le loro giacchette uscire a centinaia, quindi probabilmente ci sarà una completa disruption, come si dice qui, una completa interruzione di alcune importanti attività finanziarie. Ma vi ripeto, migliaia di persone sono state evacuate. Abbiamo con noi una signora che era dentro e qui con noi vicino ai lacrime. What's your name? Ellen. Ellen. Can you tell us what happened? Ci può dire cosa è successo? I don't speak Italian. No, può parlare in inglese. I was sitting at my desk and we heard a really loud noise. Era seduta al mio tavolo di lavoro. A che ora è arrivata questa mattina? What time did you arrive this morning? È arrivata questa mattina all'8:30, era seduta al posto di lavoro. E poi che è successo? What happened? 10 minutes later we heard a real loud boom. I was on the 20th floor. Ecco, dopo 10 minuti, lei era al 20° piano, dice dopo 10 minuti, quindi circa le 8:40, ha sentito una fortissima esplosione. Poi, and then? We all looked out the window and we saw debris flying out of the tower and smoke. Ecco, ha visto fuori dalla pianeta e ha visto all'improvviso tutti i rottami che esplodevano fuori dal palazzo e fumo, grande fumo che veniva fuori. And then? So we really told us to go down the stairs, leave the building. As we were running away, we saw a plane go around the towers and smack through the tower. Ecco, mentre scendeva, gli hanno detto di uscire, di evacuare il palazzo. Ci ha detto che sembrava che all'inizio potesse essere una bomba. Mentre uscivano, hanno visto questo aereo che girava, colpiva una parte della torre, poi ha fatto una virata su se stesso e ha colpito l'altra torre. Ma what kind of a plane was that? Did you see it well? Oh, well, commercial. Come, abbiamo un altro testimone. What was it? It was a commercial plane. It looked like a type of airliner. It had no business being that close. So everyone. Un altro testimone dice che sembrava veramente un aereo di linea, un aereo molto grande che non si capisce per quale ragione doveva essere là vicino. And then what happened? We at first, with the smoke on top, we thought there was a fire just on top of the Trade Center. That's all I saw. But I saw that second plane make the beeline straight for the building and smash into it. Questo signore dice che ha visto il secondo aereo fare. So you're saying there were two planes? C'erano due aerei. That's correct. When I saw it, I just saw a massive smoke on top of the Trade Center. I had thought it was just a fire. I didn't know what was going on. I ran into the kitchen area. I'm in the financial center, not the Trade Center. I'm right next door. Yeah. And on the ground floor. E quindi dice che era dall'altra parte del palazzo, uscito e ha visto, sembra addirittura che ci fossero due aerei. Questo per ora non possiamo confermarlo, stiamo parlando con testimoni oculari che, vi devo dire, sono veramente visibilmente emozionati, agitati. Del resto, passare attraverso un'esperienza di questo genere non è cosa da poco. Alcuni di loro, come vi ho detto, sono in lacrime. I grottami dal palazzo continuano a cadere. La situazione è molto pericolosa, siamo qui sotto la torre settentrionale. 15:30, il presidente Bush rivolge le prime parole alla nazione degli Stati Uniti. Dovremmo essere in questo momento in grado di collegarci direttamente attraverso la CNN con la voce del presidente degli Stati Uniti Bush. Proviamo a mandarlo in onda. Federal government, I'll go to help the victims and their families. Dio aiuti le vittime. È in corso un'investigazione per trovare le persone, si parla di attentato chiaramente. Our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. Il presidente americano Bush invita a unirsi. In questo momento tra l'altro il presidente era in una scuola dove era nel corso di un incontro e invita tutti a unirsi in un momento di silenzio per le vittime. 15:42, Alessandro Platerotti racconta di una città sotto shock. Sì, eccoci qua, le notizie appunto del presidente Bush ha finito di parlare da pochi minuti, ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e ha confermato che si tratta appunto, come tutti sapevamo già, che tutti che ci trovavamo qui, che si trattava di un attentato. Il presidente è stato avvisato da Condoleezza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale, e ha convocato d'urgenza una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale. L'esponente. Pronto? Prego Alessandro, vai avanti. Ecco, l'esponente dell'amministrazione che è in carica a questo punto è Dick Cheney, perché Cheney ha la delega per il terrorismo all'interno degli Stati Uniti. Quindi sono ore febbrili queste. Il governatore dello Stato di New York è stato già contattato da Bush, c'è un gabinetto di crisi che è stato mobilitato a New York, anche perché la città è completamente paralizzata. È come se ci fosse stato un attacco batteriologico, perché sono stati evacuati tutti gli uffici, tutta la gente è stata rimandata a casa, la città è morta, è scioccata. 15:44 in diretta l'allarme per un terzo aereo. Solo un attimo prima di passare alla linea al commento, abbiamo una notizia che arriva da fonte FBI, avverte le persone vicino al World Trade Center che potrebbe esserci un terzo aereo in avvicinamento. Questo naturalmente speriamo sia un errore. Prego, scusate. 15:49, viene colpito il Pentagono. In questo momento ci sono immagini di fumo e fiamme che vengono dal Pentagono. Le immagini non sono chiarissime, ma CNBC sta dando notizia che qualcosa sta accadendo, e forse il terzo aereo di cui si è parlato, anche se non c'entra ovviamente geograficamente nulla con la zona, potrebbe essere appunto sui cieli del Pentagono. Sì, quindi stanno per evacuare la Casa Bianca in questi minuti. Sì, la notizia è della CNBC. Stiamo vedendo le immagini. Wow. Ecco, Alessandro Platerotti, non so se hai potuto sentire la notizia, dunque il Pentagono è in fiamme. Sì, prego Alessandro. Sì, io mi trovo qui vicino a una macchina della polizia quando è arrivata la notizia dalla radio. C'è stata una fortissima esplosione al Pentagono, vicino alla piattaforma di arrivo degli elicotteri. C'è un palazzo lì, un edificio, che è stato, dopo una fortissima esplosione, è stato immediatamente evacuato. Ma la cosa peggiore è che è stata evacuata anche la Casa Bianca. La Casa Bianca, secondo i servizi di sicurezza, potrebbe essere l'altro obiettivo. Il Presidente Bush in questo momento non si trova a Washington, ma in Florida, per cui non è nella Casa Bianca, ma la Casa Bianca è in questo momento evacuata dalle forze di polizia. 16.04, Marco Valsania racconta in diretta il crollo della prima torre. 16.04 minuti, ci colleghiamo di nuovo con New York. Marco Valsania, Marco. Sì, la situazione qui diventa sempre più drammatica, di momento in momento, come emerge la gravità degli attentati. Una delle due torri, delle due torri gemelle, secondo le immagini, le informazioni, il top di una delle due torri gemelle è di fatto collassato, distrutto completamente. Queste le ultimissime informazioni dal luogo, dalle immagini della televisione e dai reportage dal luogo dell'attentato. Il fumo avvolge completamente le due torri gemelle e una delle due praticamente potrebbe essere a questo punto quasi completamente distrutta. Ecco, infatti arriva una conferma in questo senso dalle agenzie di stampa internazionali. 16.28, sempre Marco Valsania in diretta per il crollo della seconda torre. Le vittime saranno sicuramente... Attenzione Marco, stiamo assistendo... In questo momento le immagini drammatiche delle torri gemelle che stanno collassando praticamente. La CNN sta mostrando di fatto le due torri gemelle sono avvolte in una massa di detriti, di fumo e di fatto collassando su se stesse. Un'enorme massa di fumo sta coprendo l'intera zona meridionale di Manhattan, i grattacieli del cuore finanziario della città, praticamente coperti di fumo. Entrambe le torri gemelle sono praticamente rase al suolo. Una cosa che potrebbe quasi ricordare un'esplosione nucleare dalle immagini, dal livello di confusione, di dramma che si esprime. Un fungo enorme di fumo che ha coperto completamente la parte meridionale della città, vista dal mare, vista dall'oceano. Manhattan sembra aver subito un bombardamento a tappeto quasi dal livello di fumo e di fiamme che coprono l'intera punta meridionale della città. Quindi a questo punto ufficiale la torre settentrionale delle due torri gemelle è collassata e il New York non sarà mai più la stessa.